avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Non mi sembra vero, questa mattina voglio riparlare di televisione. Eh sì, è stata una scelta ardita, sono anni che non mi occupo più dell'analisi quotidiana della televisione. Ma perché ho smesso di guardare la televisione? Non è che non la guardi più, figuriamoci. Non la guardo più con l'intento di raccontarla la mattina. Perché? Perché facevo sempre lo stesso racconto. Uno non può, dopo 10-15 anni che parla di televisione, continuare a dire sempre le stesse cose, come fanno tanti miei illustri colleghi. Questa mattina abbiamo visto il programma. Certo, noi saremmo dell'idea che potrebbe essere stato fatto così. In realtà questo ci sarebbe piaciuto più fatto in quella maniera, con questa sorta di plurale maiestatis che sa tanto di papale, di antico, di ammuffito. Guardano la televisione e se si guardassero dietro le spalle probabilmente si vedrebbero soli davanti a quel monitor. Sì, perché io me ne sono accorto in tempo e mi sono salvato parlando di sconcezze, di scelleratezze ogni giorno che sono molto più vicine alla vita quotidiana delle persone che mi ascoltano. Ma eppure la televisione per chi viene fatta? Chi ancora guarda, ascolta e segue la televisione generalista? Cosa c'è dietro quei numeri che ogni giorno vediamo sempre più traballanti, che indicano, che ne so, che il programma di Pino Insegno è stato chiuso? Dio mio, che fitta il cuore! Mamma mia, datemi una lametta, voglio tagliarmi le vene. Non ha più senso vivere per me che il programma di Pino Insegno è stato chiuso. Probabilmente anche distretto di polizia in crisi. Mamma mia, distretto polizia in crisi. E corriamo, facciamo qualcosa, apriamo immediatamente una pubblica sottoscrizione per salvarlo. L'incubo del 10% si aggira per la TV. Ecco, cominciano ad andare sotto le due cifre, che sono il minimo indispensabile per sopravvivere, perlomeno nei canali più importanti. E quindi abbiamo fatto l'8,9%. Ci siamo salvati. Il 9,7%. Vediamo. È sempre più la fila dei decimati, dei tristi, dei rattristati. Eppure la televisione continua a essere opulenta, continua a pagare succosissimi stipendi, ad allestire fantomatici studi, a far lavorare scenografi, tecnici delle luci, sceneggiatori, soprattutto autori. Una selva infinita di autori. Autori, li vedo tutti i giorni in quella cartellina in mano, entrano gli autori, sembra che entri una classe sacerdotale, li vedi, vecchietti con la panza, signori con i bigodini in testa, ragazzetti supponenti, figli di qualche sagrestano che discettano su quello che è il significato etico e morale di quel programma. Ma per chi parla tutta questa gente? Chi è che guarda ancora la televisione? Io ho l'idea che il pubblico medio a TV generalista sia ormai un pubblico che è in via di estinzione. Le circostanze fatali della loro natura biologica e l'anagrafe lentamente li farà scemare. Quindi la televisione ha meno successo perché stanno naturalmente, e Dio li abbia tutti in gloria, morendo, le persone normalmente la guardano. Io non mi chiederei altrimenti, non mi spiegherei altrimenti chi possa mai guardare questi programmi. È notte fonda, allora. Brava. Andiamo al cinema, andate al cinema, ma guardate anche la televisione, la fiction di Rai 1. In ogni caso, buonanotte e buona visione a tutti. È mezzogiorno in punto e noi siamo qui in vostra compagnia in questo venerdì 17, ma andrà tutto bene, ne sono convinta, perché ci siete voi a casa, questo bellissimo pubblico. Tornando con le immagini del palco di Sanremo, no? Di Albano, che cosa ti porterai sempre dentro, comunque? Ma lui mi ha insegnato a stare sulla scena, devo dire che in questo sì, è stato molto bravo, perché prima ero molto molto timidissima, non riuscivo, le prime cose che facevo in palcoscenico dovevo reggermi all'asta del microfono perché mi tremavano le gambe sotto gli abiti lunghi. Ecco, ma 800 24 00 24, fate questa mattina il vostro coming out. Se voi fate parte delle persone che seguono, guardano e hanno affezione per questi programmi, chiamatemi, raccontatemelo, ditemelo, ditemi le vostre impressioni, perché io l'ho fatto per tanti anni. A me non è che fa schifo questa televisione, non mi fa solamente, se mi piace, mi diverte, è uno strumento interessantissimo di analisi antropologica del passato. Il momento che per me è diventato l'analisi del passato, ho smesso di guardarla, ma l'ho guardata per tutto il periodo che pensavo che fotografasse parte della mia contemporaneità, l'ho guardata con grande attenzione, mi interessava il fenomeno Marzullo, l'ho studiato, l'ho analizzato, visto questa sorta di signore che tutti guardavamo noi, e coniai questo termine che segnò parte della sua gloria, l'effetto gatto spiaccicato. Guardavamo Marzullo con lo stesso insopprimibile desiderio di osservare qualcosa che ci fa orrore che noi applichiamo quando, camminando per strada, vediamo un gatto spiaccicato per strada, lì con le budella aperte, beante, sembra quasi una reminiscenza della carogna di Baudelaire. Ci fa schifo vedere tutte quelle mosche intorno alle budella del gatto spiaccicato, ma rischiamo di andare noi stessi a spiaccicarsi perché con la coda dell'occhio continuiamo a guardarlo. Per questo guardiamo Marzullo, allora aveva un senso. Oggi che senso ha ancora guardare Marzullo? Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte, di Georgia Luzzi. Georgia, sottolineiamo Georgia. Georgia, sottolineiamo. Ma perché? Sì. Perché lo chiedo io a mio padre costantemente, vorrei prepararmi una di quelle risposte, no? C'è un motivo. No, semplicemente ha voluto mettere una E, così. Ma c'è una Santa Georgia? No, non credo ci sia. No. Invece non di Georgia, invece della I, lei. Ha voluto si dare il suo mentre nome. Mentre Marzullo sarà senz'altro un oggetto di studio, me lo dico seriamente, non lo dico per prendere in giro, per ironizzarci. Quando poi cercheremo di analizzare le icone pulsanti degli anni 80, 90, 2000 e 2010, gli auguro 2020, 2030, non so fino a che anche lui Dio non lo abbia in gloria, osserveremo Marzullo e cercheremo di spiegarci i motivi dell'esistenza di Marzullo. Ma nel frattempo 800240024, raccontatemi il vostro atteggiamento nei confronti della televisione, quella con la T maiuscola, che è quella che abbiamo sentito adesso, fatta di Giletti, fatta di Marzulli, fatta di De Filippi, fatta di Maurizio Costanzo, fatta di tutte le persone che immancabilmente tengono la loro posizione. Ma per chi la tengono? Per quanti la tengono? Quanti sono realmente seduti dall'altra parte del video, del monitor televisivo? Michela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, raccolgo anch'io il suo invito all'estinzione delle persone che guardano la televisione. Ma non bisogna augurarsi che si estingano, ce lo mandiamo a un certo punto. Sì. Un'evoluzione naturale. Diciamo. Questo meccanismo per chi è tenuto in piedi? Per quante persone? Vorrei sapere per quante persone è tenuto in piedi. Ma io credo tante, e io grazie al cielo non faccio parte di queste, perché sono più di 15 anni che non ho proprio nessun apparecchio che sia la televisione. Vabbè, lei fa parte della peggior categoria. Scusi, no, Michela, di quelli con la puzza sotto al naso, dico io non guardo no, mai non la televisione. Vero. No, ma non è vero. Perché fa male, perché la televisione è un segno del suo tempo, deve comunque sapere che esiste e lasciarci si contaminare. Certo che la sento che esiste, quando mi capita la guardo apposta per avere questo aggiornamento, però volevo darle un segno di cosa succede a non guardare la televisione, infatti per quello si sviluppa proprio un'allergia anche fisica, io non riesco più a sopportare le frequenze che ha la televisione, che sono diverse per esempio da quelle radiofoniche. E vedi, ha sviluppato una patologia. Sì, una patologia, quindi deve curarsi. Che quindi egoisticamente si faccia delle supposte, spero, di Marzullo per 6 mesi e ritornerà nuovamente sana. No, non c'ho voglia, perché grazie a Dio ci sono altre cose da fare, e quindi però egoisticamente spero che prima o poi questa specie si estingua. No, non bisogna, io semplicemente vorrei lucidamente capire per cui questo apparato critico, analitico, produttivo, queste fucine di idee, per chi stanno lavorando, per quale fetta di umanità ancora lavorano? Perché se mi viene risposto, lavoriamo per una sorta di grande ospizio per l'umanità anziana, mi sta bene, benissimo. La televisione generalista è uno strumento di intrattenimento per gli anziani, ma mi sta strabene, però non può più avere questa centralità e immaginare che il mondo passi per lì. È una sorta di strumento consolatorio. Che ne pensi, Silvia Leonzi? Buongiorno. Buongiorno. Silvia Leonzi è una professoressa, docente di sociologia dei processi culturali e comunicazione alla facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza. Ti ho fatto sentire l'introduzione e il primo commento. Il tuo punto di vista, per chi viene fatta questa televisione? Questa televisione viene fatta effettivamente per un pubblico di anziani, di resistenti, di zombie in qualche modo, che però resistono in qualche modo passivamente, ma sappiamo che tutto questo dipende in larga parte dal rapporto tra politica e industria culturale nel nostro paese. Cioè, io non vorrei sembrare una persona ammalata giovanilismo, anche perché non me lo posso più permettere, basta guardarmi allo specchio. non disprezzo la TV fatta per anziani, ma dico, non può avere la supponenza di essere centrale nell'organizzazione della macchina culturale di questo paese. C'è, benissimo, c'è, come giustamente ci sono le bocciofile, le crociere, il Viagra, i pannoloni, tutte cose, presidi importantissimi di cui tutti usufruiremo, ma non è al centro. Il mondo non passa per la televisione. Il mondo non passa per la televisione, però diciamo l'immaginario che costruisce la politica sulla televisione vuole far credere che la televisione sia al centro, e come sappiamo poi quando una cosa è considerata come reale, no, gli effetti sono reali, quindi noi pensiamo effettivamente che sia centrale quando non lo è. Ma serve alla politica pensare ad una maggioranza, diciamo, silenziosa, come, no, diceva Baudrillard, che in qualche modo a cui si possono agganciare, diciamo, dei tentativi di resistere anche di questa politica, che è una politica basata sulla dittatura dell'auditel, dell'audience, sulla pubblicità, sul marketing, tutte cose che, diciamo, alimentano il feticcio del quantitativo. Sì, ma fra un po' dovranno mettergli un tutore e una flebo al campione auditel. Io, diciamo, di televisione sto parlando di TV generalista. In primo il servizio pubblico, che il servizio pubblico deve farsi carico di questo cambiamento del paese. Ieri ho intervistato il presidente Listat, che si è meravigliato che il primo giorno di censimento degli italiani gli sono zompati i server, perché ci sono più italiani che usano internet in casa di quanti lo stesso Istat si fosse mai immaginato. Sono saltati i computer, c'è stati picchi di 1 milione di contatti di italiani che da casa la domenica facevano la loro dichiarazione di censimento online, e tutti sono caduti dal pero. Dice, come mai? Impossibile. No, solo il 20% usa internet. Guarda caso, gli italiani sembrano più avanti di quello che pensiamo. Ma l'industria televisiva, è giusto che succhi tante risorse del patrimonio nazionale, visto che ci stiamo facendo i conti sui tagli, sulla cultura, sulla scuola, visto che rappresenta soltanto un campione in decadenza, che ha tutto il diritto di essere assecondato, e non è detto che debba continuare per il resto della loro vita di subirsi questa minestrina riscaldata, perché anche agli ospizi danno la minestrina, ma hanno anche pietanze più succose. Cosa ne dici, professore? Ma diciamo che non è giusto, ma la mutazione genetica, antropologica delle tecnologie e dell'ibridazione delle tecnologie con gli spettatori, secondo me non è ancora compiuta. Quella è iniziata, no, con il passaggio alla TV commerciale, TV digitale, ora web TV, è ancora in atto. Io penso ad esempio a una trasmissione come quella di Santoro, Tutti in piedi, che è nata dentro la TV generalista e poi ha creato una sorta di effetto rimbalzo anche all'esterno. Quindi queste nicchie che si stanno aprendo, però ancora in qualche modo sono, succhiano, diciamo, latte, sangue. Santoro ha soltanto il grosso limite, che fa trasmissioni molto ideologiche, però sì. È di tutta, diciamo, sì, la classe passata, la televisione generalista, quello che ha più acume. Guarda caso, le sue nuove lezioni d'amore già sta raccogliendo un'infinità. Lo faranno anche perché gli sta sulle palle Berlusconi, perché pensano che la televisione del dissenso e via dicendo. Ma lo fanno anche perché comunque il fatto che Sky gli dia un canale per trasmettere vuol dire che, al di là di ogni lettura politica, capiscono che è un'apertura nuova, diversa, che può funzionare. Intanto sperimentano. Livo. Buongiorno, dottor Nicoletti. Eccolo. Segue sempre con grande entusiasmo. Vada al punto. Dunque, io ho detto alla sua, che riceve la telefonista, per me... La ricettrice, diciamo, si chiama. La televisione non costruisce cultura. Io l'ho definita nelle cose lì, nullità e saccenteria che si parlano addosso. Sì, cioè, ma nobody... Sono l'ultima persona che può fare il discorso di demonizzazione della televisione. La televisione è uno specchio interessantissimo dell'umanità. Non costruirà cultura, ma la cultura non è che si faccia nelle università di scienza della comunicazione perché si analizza la televisione. Va guardata, va osservata, è un indicatore importante. Quello che dico io questa mattina, che non può più avere la centralità nel presupposto immaginario nazionale che tutti pensiamo che abbia. Non è questo, è una cosa che ormai è residuale. Grazie della risposta. Sonia. Sì, buongiorno. 31 anni, una sì, giovane. 31 anni da Milano. Sì, perché 31 anni da Roma cambiava, erano come 60. No, non lo so, era per fare un target un po' più centrato. Brava, si centri il target. Fondamentalmente io sono d'accordo sul fatto che in generale la TV offra poco. Molte volte quando mi capita di stare a casa malata e guardare la televisione non so mai che programma scegliere. Anche se qualche programma, diciamo, un po' più specifico, come ad esempio magari a me che piace cucinare, io la prova del cuoco la guardo volentieri, da sempre buone idee, oppure anche per esempio mi piace viaggiare, quindi le falde del Kilimangiaro, Super Quark, Passaggio Nord-Ovest. Vabbè, lei è una delle brave ragazze che dice guarda quei bei programmi culturali. Benissimo, le potrei citare altri 5.000 cloni di questi programmi che vanno su altri canali anche con molto più ritmo, fatti anche in maniera più divertente, prendendosi meno sul serio. Però lei dice la televisione per me è uno strumento di accrescimento, di curiosità, e me la guardo con questo intento. Mi fa piacere, lei è una brava ragazza. Piero Vereni, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Antropologo, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, autore di Identità catodiche, edizioni Meltemi. Sei entrato al volo nel nostro dibattito, cosa ne pensi? Questa mattina lancio la crociata, dice rendiamoci conto, la televisione sì, è giusto che esista, ma è giusto che esista come esiste il pannolone per adulti incontinenti. È un presidio importante, necessario e pietoso, ma non è al centro del fermento culturale di questo paese. No, assolutamente, è una crociata, diciamo, che mi vede completamente solidale con te. È l'inerzia, sostanzialmente. La televisione oggi è per Giovanni Rana e per il baraccone politico, cioè per gli inserzionisti e per i politici con poca fantasia, che non trovano altri strumenti, che sono convinti che lì dentro la TV generalista ci sia ancora molto da succhiare, diciamo, insomma, è proprio una questione di inerzia, insomma, secondo me, di habitus consolidato in 40 anni invece di dominio potente della televisione generalista, che ha fatto sì che la gente si abitua, lo sai meglio di me Gianluca, l'abitudine poi sono difficili da cambiare. Però Vereni, cominciano ad esserci qualche segnale che tutti tengono come i primi sintomi della decadenza, che uno si tinge i capelli, si scolora le macchiette, si liscia le rughe, comincia la parola flop a essere sempre più presente nella televisione generalista. Potrei fare un elenco lunghissimo, ho citato il programma di Pino Insegno, ho citato altri programmi, i telegiornali cominciano a fare cifre ridicole che una volta avrebbero impiccato e coperto di pece, piume, direttori. Sta accadendo qualcosa, si fa finta che il corpaccione non è malato, ma in realtà mostra i segni. Sì, sicuramente, però appunto diciamo una ragione banalmente anagrafica, insomma, l'hai detto anche tu prima, insomma, quando l'audience si alza rapidamente in termini di età, è inevitabile che poi, come dire, arriva alla sua naturale compimento, diciamo. Questo è un punto. E un altro punto invece è probabilmente anche il grado di abbandono in cui è stata lasciata la televisione generalista, per quanto riguarda intelligenze, idee, spunti. È stato considerato un po' un presidio, diciamo, di una certa classe dirigente che pensa di poterlo sfruttare come un orticello. E quindi diciamoci chiaro, Vereni, anche di case di produzione di autori esiste una classe sacerdotale, lo dico con rabbia e con invidia, come tutti noi, tutti piacerebbe scrivere per la televisione, perché si comprano tanti cappottini per i figli e tante minestrine calde, ma è intoccabile la classe sacerdotale degli autori televisivi, sono sempre quelli in ogni programma. Può essere altrimenti, è un mezzo, la televisione generalista è un mezzo conservatore, dal punto di vista strutturalmente conservatore, costa comunque talmente tanto che qualunque innovazione è vista come il fumo negli occhi, insomma, se sei un produttore e quel prodotto ti è andato bene, lo replicherai, lo fai 100.000 cloni sperando di cambiare tanto le virgole e sperando che i babbei che hanno visto la prima versione si vedano anche come quelli che si esercitano sulla moglie tutta la vita perché sanno che almeno lì va bene. Sì, esatto. Nunzia, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccomi. Lei diciamo, fa parte della fascia giovane del pubblico e quindi questa televisione vorrebbe vederla cambiare, immagino. Io vorrei vederla cambiare. Diciamo che io non posso considerarmi giovane, forse neanche tanto anziana. Quanti anni ha? Io ho 63 anni. Ah, beh, giovanissimo. Grazie. Però i miei genitori sono ormai anziani, conosco parecchi anziani anche ormai. E trovo che questa televisione è diventata noiosa per loro e anche per me. Sono alcuni anni che la guardo con molta moderazione. E nel senso che la cosiddetta TV commerciale, chiamiamola così, quei programmi un po' frilli frilli che vogliono essere di svago, eccetera, non svagano proprio per niente. Gli anziani poi detestano tutta quella luce, colori che confondono le idee. Ecco, lo sai, hai detto una cosa molto intelligente, Nunzia, che non ci ho mai pensato. Perché hanno dei vecchi programmi, ma i vecchi programmi ormai, anche quando fanno vedere, le repliche di 30 anni fa, sì, ormai sono già straviste. Ormai è una televisione di morti, e quindi... No, lei ha detto una cosa però che nessuno mi ha fatto caso. Esiste anche un problema fisiologico. Se il pubblico è anziano, il pubblico anziano è infastidito, ma è proprio un problema retinico, di cateratte, di angolo di visuale, da le luci, dai colori, dallo sfavillire una televisione, quindi anche sbagliata come format. Se fosse una televisione avrebbe una grande dignità di esistere, consolatorio di intrattenimento per chi si deve riposare nell'età pensionabile e tutto. Non bisognerebbe farla così, andrebbe fatta diversamente. Sei d'accordo, Silvia Leonzi? Ha detto una cosa molto intelligente questa signora. È fatta da pseudo giovani, ancora con in mente il modello della TV di Arbor degli anni '80, per persone che magari hanno problemi di visus e quindi sono infastiditi. Sì, è una televisione, diciamo, in qualche modo antica, superata, ma questo l'abbiamo già detto, che gli anziani, questa cosa delle luci e i colori è vera, ma è vero anche che la televisione spesso rimane come elettrodomestico di sottofondo, quindi fa compagnia anche soltanto, no, ascoltare, non ci si può neanche sottrarre poi la dittatura dell'ascolto. Io non riuscirei a addormentarmi sul divano senza televisione, esatto, la sera, e sono anch'io. I migliori sonnellini che porta mi faccio. Porta a porta, è un classico. Sì, bellissimo. Sì. Ti accompagna mano nella mano dal divano al letto, sì, non te ne accorgi nemmeno. Mi trovo sotto le coperte felice e non dico: ma come è accaduto questo miracolo? Grazie Bruno Vespa. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sì, me lo dicono tutti, ma... Me lo dicono tutti, ma... Me lo dicono tutti. Me lo dicono tutti, ma non sono io. Me lo dicono tutti. Sì, me lo dicono tutti. Me lo dicono tutti, guarda, due gocce d'acqua. Me lo dicono tutti, ma non è così. Gli scherzi sono pronti, in studio siamo quasi... Ma sei Sergia? No, me lo dicono tutti. Sono Pino Insegno. Ciao. Me lo dicono tutti, da sabato alle 21.10, Rai 1. Gliel'hanno detto tutti, gli hanno tanto detto che l'hanno sotterrato, è durato pochissimo, un programma con dei VIP mascherati, una cosa che Paris Hilton faceva già 10 anni fa, una cosa talmente pacchiana che la stessa autovergogna l'ha fatta sotterrare. Ma è logico, primo, perché anche il concetto di VIP è un concetto che si autogenera nell'immaginario di chi lo incarna, alla gente non gli può fregare più di niente, le persone minimamente dotate di senso pratico e concreto di quelli che vengono considerati VIP, lasciate perdere la sfilata estiva in Costa Smeralda, dei poveretti vanno a fare le foto al passaggio di quelli che vanno nelle discoteche. Il mondo oggi è lievemente mutato, cambiato, non è che sia un ottimista, non è più naturalmente espresso dalla televisione generalista. Di questo stiamo parlando stamattina. Perché c'è un'industria culturale così costosa, così onerosa, così centrale nell'immaginario dei mezzi di comunicazione di massa? I giornali hanno ancora intere pagine per parlare del programma di Pino Insegno, che non ha guardato quasi nessuno. Ci sono persone che fanno la loro ragione di vita, lo scrive i libri sulla televisione, analizzare programmi, fare i numeri. C'è un'alchimia complessissima di numeri ogni giorno. Ma cosa stanno misurando? La pausa dentiera? La pausa padella? Qual è stato il momento che è stato immagazzinato dall'Auditel nei flussi di ascolto di questi programmi televisivi, fra un abbiocco e l'altro, fra uno scaracchio e l'altro? Chi è che guarda questa televisione e perché contiamo questa televisione? Ma noi, proprio perché non vogliamo essere semplicemente disfattisti, siamo convinti che stia nascendo un'altra maniera di intendere l'intrattenimento televisivo. Ho due figli, 14 anni e 16 anni, non che io abbia voglia ergermi come indicatore dei trend nazionali, ma li vedo la sera, ognuno a modo suo, uno con l'iPad, l'altro nel suo computer, si guardano YouTube. Cosa fanno? Si costruiscono da soli delle cose divertentissime fatte di spezzoni TV generalista che però viene reinterpretata, ricontestualizzata. Guardano le cose che più li fanno ridere, guardano 50.000 volte la Clerici che esprime attraverso lapsus linguistici le sue profonde passioni, la guardano, la riguardano e si divertono. Guardano delle cose che io nemmeno sapevo che esistessero, tanto che da una segnalazione di mio figlio è uscito questo. Ok, fermi tutti. Che succede? Cioè, ragazzi, nessuno si ricorda niente. Bene, dove siamo? Siamo sotto casa mia. E tu sei la mia ragazza? No, non è possibile. Cioè, qualcuno deve ricordare qualcosa. Quindi? Aspetta un attimo. Io mi ricordo di te. Tu mi sei tipo saltata addosso. Che c'è? Che hai visto? C'è Pedro Bear? Che cazzo è quello? Si chiama Freaks, non so se avete mai sentito parlare, è una miniserie girata soltanto per YouTube, però vedo che hanno fatto 840.000 contatti su uno di questi video, 840.000 persone che sono andati a vederlo. Beh, non è un brutto numero anche per la televisione. Freaks è una storia di alcuni ragazzi che assumono superpoteri, quindi è una chiave narrativa consueta, però che piace ai ragazzi. Ai ragazzi piacciono i supereroi, sono supereroi naturalmente un po' sgangherati, ma molto legati all'immaginario adolescenziale normale. C'è un ragazzo timido che viene perseguitato dai bulli, lui si mette a piangere, ma scopre il suo superpotere, fa piangere anche i bulli, quindi lo assalgono, lo vogliono menare, lui piange, prende in giro, che fai, piangi, ma in realtà si mettono a piangere tutti loro, si abbracciano e lui riesce a scappare. Un'altra, esasperata da un fidanzato rompente piscatole, ogni volta il fidanzato gli fa una rampogna, una ramanzina, una scena di gelosia, lei sviluppa un superpotere e lo acceca, quindi acceca le persone quando lei si arrabbia. Poi c'è un altro ragazzo, il più bello di tutti, ogni volta che ha un rapporto amoroso e raggiunge l'acme del piacere, ferma il tempo, e fermando il tempo torna indietro nel tempo, quindi praticamente per lui una congiunzione con la sua fidanzata dura 20 orgasmi messi in fila, quindi si sveglia la mattina e dice: oh, che bello, è stato bellissimo, lunghissimo. La ragazza dice: ma veramente sì, 5 minuti non sono male, ma non è che sia tutto questo che... Beh, questa storia è stata fatta e prodotta, e devo dire in qualità broadcast, quindi girata molto bene, è girata veramente bene, veloce, divertente, con un linguaggio fatto apposta per le persone che la guardano su YouTube. È stata fatta da 4 ragazzi romani che ho rintracciato al telefono per puro caso questa mattina, che hanno ideato questa serie e l'hanno messa online. Non so chi li finanzi, non so chi li sponsorizzi, non so come gli è venuta l'idea, ma ne abbiamo chiamato uno al telefono, ce lo racconta e io lo apprenderò assieme a voi in diretta. Giampaolo Speziale, buongiorno. Buongiorno, posso diventare tuo figlio? No, non puoi diventare mio figlio, sei troppo vecchio. I miei figli dovranno avere massimo 15 anni. Senti caro, mi spieghi esattamente come vi nasce, chi vi ha dato i soldi, come l'avete fatto, come nascete tutto? Allora, guarda, i soldi non ce li ha dati nessuno, nel senso che erano soldi nostri, perché ci abbiamo messo 2000 euro in 4. Quindi per girare una fiction che secondo me potrebbe essere un buon prodotto televisivo avete speso 2000 euro? Sì. Che qualifiche avevate? Chi ha studiato di voi? Chi vi ha insegnato a girare, a montare? Nessuno di noi ha studiato. Autodidatti. Abbiamo quattro posizioni diverse all'interno della produzione. Io sono personalmente quello che ha scritto le musiche della serie, e Matteo e Claudio sono i due registi, e Guglielmo ha scritto le sceneggiature assieme a Claudio e scriverà le sceneggiature da solo della seconda serie. Facciamo del male fino in fondo. Che attrezzatura avete usato per montare e per girare? Allora, per girare abbiamo usato una Canon 5D, che era già di proprietà di Matteo, che è una macchina da... una macchina fotografica, meno, usata una anche come... Sì. Una reflex che costa più o meno 2000 euro. E chiaramente non c'è pellicola e quindi non ci sono soldi buttati per la pellicola. Vi sarete costruiti da soli anche l'apposito braccino per poter girare, come certo, fanno tutti. Chiaramente. E poi abbiamo usato per la fotografia notturna un paio di LED cinesi da 50 euro. Sì. E per montare, vabbè, un programma che si chiama Premiere della Adobe, craccato naturalmente. Non te lo so dire. Vabbè, non comunque so dire. Chiaro, no? Ti metti a comprare Adobe, probabile. Da solo quello vi faceva sforare il budget. Eh sì, è probabile. Quindi su YouTube avete fatto 840.000 contatti, me ne sono accorto questa mattina. Sì, quelli sono per la prima puntata. In realtà, sì. I contatti generati dal canale dall'inizio della serie all'ultima puntata sono 6 milioni e mezzo. 6 milioni e mezzo, mi dai una. Senti, gli attori chi sono invece, gli interpreti? Gli attori sono, allora c'era, insomma, le due attrici sono Ilaria Giachi e Claudia Genolini, che sono due attrici. La prima diplomata. E ve l'hanno fatto gratis. A Roma l'hanno fatto. Che beh, in realtà hanno speso anche qualcosa, perché con quella benzina non gliel'abbiamo ripagata. Quindi. Però vedi, questa mattina hanno finalmente la gloria di qualcuno che si è accorto nel circuito dei media tradizionali dell'esistenza di questa cosa. Sì, sì, sì, ma infatti ci abbiamo creduto fin dall'inizio e siamo stati una squadra unitissima. Nessuno va chiamato, contattato per dire: che bello, perché non portate il vostro prodotto, che ne so, in un canale Sky, quelle cose. Beh, che no, dico. In realtà siamo stati contattati da molte persone e stiamo sondando il terreno. Sicuramente però l'idea e ciò che sarà fatto sarà lasciare l'esclusiva a YouTube, perché comunque questo nasce per essere un prodotto gratuito e nascere per essere un prodotto, come si dice, criticabile, quindi noi lo vogliamo mettere a disposizione delle persone. Quindi contaminabile dal giudizio di chi lo guarda, certo, passo assolutamente, passo. Assolutamente. assolutamente, con i suoi pro e i suoi contro. Fermiamoci un attimo, voglio sentire i miei ospiti, illustri professori che insegnano all'Università Scienza della Comunicazione, cosa pensano di questo esperimento. Silvia Leons, ricordo, docente di sociologia dei processi culturali e comunicazione alla Facoltà di Scienza della Comunicazione della Sapienza. Fate sempre dei grandi seminari, morcellinate dalla mattina alla sera. Cosa ne dici di questa cosa qua? Ma dico che è un esempio di una grande vitalità che chiaramente sta emergendo piano piano, ma che diciamo in maniera sotterranea comunque sta creando fermenti per ora sul web, ma probabilmente grazie poi alla convergenza di mezzi di comunicazione, telefono, TV, rete, potrà anche diciamo prendere altre forme, anche se appunto da quello che diceva Gianluca, mi sembra che si chiami Giampaolo Speziale. In realtà dietro tutto questo c'è anche un po' una filosofia particolare che non è certo quella del generalismo, quindi mantenere, no, una certa purezza, no, nella possibilità di scegliere contenuti eccetera, e però di contro non farsi pagare, no? Ci fermiamo modo. Un istante soltanto per dare le informazioni del traffico. Ricordo, ma per un momento di vanagloria, che tantissimi anni fa scoprì a New York, in una sede della Rai Corporation, in un angolino che montava le sue cose, un ragazzo che stava facendo un suo provino per una tesi di laurea. Quel provino lo comprai, lo portai in Rai, allora lavoravo in Rai, lo proposi, ci risero tutti, lo misi in internet. Il ragazzo si chiamava Saverio Costanzo, oggi è diventato un riconosciutissimo, importante, al di là del suo nome che non aveva mai avuto aiuti paterni, io lo scelsi io, lo feci io. Beh, allora aveva fatto una cosa del genere, aveva girato in un caffè di italoamericani il quotidiano, la giornata, avevamo montato questi dialoghi, era venuta una cosa bellissima, e Rai risero tutti, ma che è sta roba, che ci facciamo? Oggi lo andranno a cercare con le unghie, con i denti, nei sotterranei, se ancora hanno voglia di fare qualcosa di intelligente. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora, le 60 ragazze ci sono, giuria tecnica questa sera, giuria di spettacolo domani sera, il televoto funziona perfettamente, dai che ci siamo! Buonasera a tutti e bentornati a Miss Italia. Ma qui non c'è nessuno. No, hai sbagliato, non è più qui. Bentornati al Teatro Ariston. Qui c'è la busta col verdetto. Stasera hanno cantato 14 artisti e adesso si saprà quali sono i nomi dei due che non andranno avanti nella gara di Sanremo. Messe a contrasto le due realtà, in realtà stridono, la fiction autoprodotta da ragazzi con 2000 euro, con musica originale, girata da loro, montata da loro, interpretata da attori sono prestati, messa a YouTube che fa 6 milioni di contatti, Sanremo che da solo sarà costato quanto non lo so, boh, cosa ci si costruisce con Sanremo? Un ospedale, una scuola, non ho idea cosa si possa fare con quello che costa Sanremo. Si potrebbe fare un corso che dura un anno per non so quanti ragazzi per insegnare loro a usare una telecamera, si può fare un'infinità di cose. Beh, queste due realtà messe a contrasto stridono, io non voglio fare il populista, ma è ora di dire che la televisione com'è non rappresenta più nulla, la continuano a fare se gliela fanno fare, se c'è chi la finanza e tutto, però almeno diciamo non rappresentate più nulla, la fate per voi, la fate per mantenere voi stessi, le vostre famiglie, i vostri piaceri, i vostri vizi, le vostre... però non è una cosa fatta per il pubblico. Ho in studio per commentare quello che stiamo ascoltando Silvia Leonzi, che è una professoressa della Sapienza, insegna scienza della comunicazione, e Piero Vereni, che è antropologo, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, esperto di identità catodiche. E Piero Vereni, che ti ho tenuto silenzioso nella seconda parte, cosa ne dici di questo esperimento? Sembra una facile contrapposizione, però bisognerebbe riflettere anche su queste realtà. Ma sì, perché guarda, mi è fatto venire in mente che paradossalmente con questa sua pochezza la TV generalista continua ad essere lo specchio del paese, come si diceva una volta. Quindi guarda, è importante che esista comunque, sono di queste idee. No, è paradossale, stavo dicendo, perché dimostra che questo non è un paese per giovani, cioè Giampaolo Speziale e i suoi amici hanno dovuto, stanno facendo un hobby, perché sono giovani, no? Nessuno se li fila. Se lo possono permettere. permettere. Sì, anche, sì, cioè, però appunto non riescono a farlo diventare un lavoro perché nessuno li prende sul serio, probabilmente perché sono giovani, sono creativi, hanno voglia di fare, non sono paralizzati dagli schemi alla Sanremo, e quindi chi li ascolta, chi dovrebbe essere il loro interlocutore, quei babbioni lì non riescono a capire quello che gli stanno dicendo. Quindi in questo senso la televisione così com'è, quella che vediamo o non vediamo più, insomma, o che vedono i vecchi, è la prova di, è ancora una volta paradossalmente l'incarnazione dello spirito generale di questo paese. Secondo te cosa accadrà a un certo punto? Ma mi auguro, insomma, che ci sia un collasso, perché il modello di business, come si dice oggi, non reggerà più a queste condizioni. Quindi, i flop, sai, un conto sono i flop delle audience, e un conto è quando gli inserzionisti cominciano a tagliare la corda, e invece di venire a mettere soldi sui programmi di Marzullo o di Pino Il Segno, vanno a chiedere a Giampaolo Speziale se possono sponsorizzare il suo di programma. Forse è questo che succederà, insomma. Sì, senz'altro, diciamo, il rapporto investimento e ritorno in termini di visibilità sarà senz'altro più proficuo, lo vedranno meno persone, ma saranno quelle persone che avranno almeno la forza di uscire di casa, fare due passi, andarsi a comprare qualcosa piuttosto che rimanere impietriti nel loro letto di degenza. Silvia Leonzi. Ma io mi fa un po' paura l'idea che questi giovani talenti vengano risucchiati dalla TV generalista, perché... Beh, dovranno pur vivere anche loro. No, sicuramente, però mi chiedo che cosa diventerebbero queste micronarrazioni risucchiate all'interno dello schermo catodico, cioè che effettivamente... Ti posso fare una... Ti posso dire, li manderebbero, nella migliore delle ipotesi, in un ufficetto. C'è un signore spelacchiato, puzzolente, con l'ascelle pezzate, che glieli guarda e glieli cambia da capo a piedi. Gli mette sopra un autore, una signora massaia in ciabatte piena di soldi, che però in realtà non va oltre il suo naso, e diventerebbe un'altra cosa, però intanto potrebbero sopravvivere. Loro potrebbero sopravvivere sicuramente, però credo che non sia questa la strada. La strada è più quella di sradicare, diciamo, e cercare di tenere duro e rimanere duro, diciamo, no, nell'ambiente devono in cui si sopravvivere muove. Ovviamente tutte e due le cose, però insomma. Anna, sentiamo Anna. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Attendo con ansia il suo contributo. Posso raccontare la mia triste parabola di ex autrice televisiva? Autrice, dimmi un programma su cui hai dato il tuo contributo. Io lavoravo a All Music, alla fu All Music. Ah sì, va bene. Esatto. Scrivevo un programma, una monografia, che si chiamava Mono. Non peraltro. Adesso chiamavi Mona, magari aveva più successo. Poteva andare più sulla generalista. Allora? Niente, sono perfettamente d'accordo con l'impostazione del programma, nel senso che penso che la televisione generalista sia ormai veramente giunta al suo termine, ma anche perché francamente io per questioni di tesi, di laurea, l'ho guardato un sacco di talent. Quindi tu, diciamo, Anna, sei la prova vivente in realtà di una crisi del settore. Poi sentiamo Enrico, che Enrico è la telefonata con cui concluderò la trasmissione. Velocissimo, la tua testimonianza, Enrico. Velocissimo, sono stato ricoverato 10 giorni all'ospedale qui a Milano, al Policlinico, e c'erano tutti vecchietti, da 78 a 85 anni, per dirla breve. Col televisore spento erano tutti svegli, col televisore acceso dormivano tutti. E quindi Enrico, ci dai questa mattina la soluzione alla nostra domanda. Una funzione la TV generalista ce l'ha, soprattutto la TV pubblica, è un perfetto anestetico negli ospedali e nei luoghi di degenza. Grazie, grazie agli ospiti e grazie agli ascoltatori. Alors tous deux on est partis dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.